Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si chiama Park Smart e ha appena vinto i 100.000 euro del primo premio di Edison Start, competizione dedicata alle start-up innovative. Come sapete, molti progetti di mobilità intelligente hanno come obiettivo finale la diffusione di app oppure di altri strumenti che consentano all'automobilista di sapere dove si trova il posto auto libero più vicino. Park Smart è una soluzione innovativa che permette di imbastire agilmente l'infrastruttura di base necessaria per questo servizio. Sentiamo. Benvenuto Pierluigi Buttiglieri, project manager e cofondatore di Park Smart. Buonasera. Ecco, Park Smart, noi Smart City, insomma, abbiamo parlato molto spesso di parcheggio, di parcheggi intelligenti. Peraltro circolano numeri, si dice che il 30% del traffico nelle città sia dovuto a gente che sta cercando parcheggio. Sappiamo che la ricerca di parcheggio è una delle esperienze più estenuanti, psicologicamente provanti della vita di noi poveri esseri umani che ci tocca guidare la macchina. Una statistica sia venga fuori, una statistica inglese di un assicuratore, che un anno della vita di un singolo guidatore viene passato alla ricerca di un posto libero, cioè giriamo intorno al blocco, all'edificio, per un anno intero della nostra vita. Sembra incredibile, ma la sprechiamo in questa maniera. Beh, questo numero a maggior ragione ci fa riflettere. L'idea naturalmente è che se noi riusciamo a dire a una persona: guarda che il posto libero per te è lì, e questo ci va direttamente, risparmiamo traffico, risparmiamo inquinamento, risparmiamo anche un po' di fegato. Però insomma, di infrastrutture di questo genere ne stanno nascendo diverse, ci sono diverse proposte. Che cos'ha di particolare questo vostro Park Smart? Allora, io differenzio i nostri competitor in tre tipologie. Quelli che utilizzano sensori sui veicoli e in base a questo diffondono le informazioni dove si trovano i posti, quelli che utilizzano sensori sopra l'asfalto e quelli che utilizzano i sensori sotto l'asfalto. In tutti e tre i casi noi stiamo andando a realizzare nuove infrastrutture, in un caso sui veicoli e nell'altro caso sulla città. Banalmente, per esempio, bisogna mettere un sensore, non so, annegato nell'asfalto in ogni parcheggio, quindi c'è un'operazione che anche ha anche un costo, naturalmente, sposa una tecnologia. Non solo ha un costo, ma ci vincola per i prossimi 5-10 anni, quanto potrà durare questo sensore. E dopodiché devo andarlo a riaprire, cambiare il sensore e poi mi vincolo con un'infrastruttura, con una tecnologia, con un brevetto in genere. Partendo da questo presupposto, ho pensato che avesse senso cambiare paradigma, cioè iniziare a lavorare con infrastrutture già esistenti, possibilmente con infrastrutture già installate e anche funzionanti da diversi anni. E noi abbiamo immaginato che la videoanalisi, il sensore video, sia lo strumento più adatto. Già ci sono in molte città delle telecamere che monitorano la parte centrale, la parte più vissuta della città. Più problematica spesso dal punto di vista dei parcheggi. Esatto. Ma se possiamo utilizzare queste stesse infrastrutture per dare ulteriori informazioni ai cittadini, perché no? E possiamo farlo in maniera aperta, quindi senza bisogno di infrastrutture chiuse da parte di un fornitore, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi come funziona questo sistema? Intanto ci sono le telecamere, evidentemente voi vi prendete il segnale delle telecamere e lo elaborate in qualche modo, riuscendo a identificare gli spazi liberi. E poi che succede? Ok, allora, noi lavoriamo proprio sullo streaming video. Per noi è molto importante definire questo. Cioè, noi non abbiamo nessun elemento di stoccaggio dati. Quello che arriva al nostro server centrale è un'informazione discretizzata dello stato dei parcheggi. Posto libero, posto occupato, segmento libero, segmento occupato. Perché anche qua, rispetto al mondo degli autoveicoli, non è che il posto auto è uguale per tutti i veicoli. Cioè, se io ho una Smart o un Caravan, non troverò lo stesso posto. Magari uno ha parcheggiato male, banalmente, no? Esatto. Queste cose vengono fuori dall'analisi. Benissimo, allora, voi riuscite a capire dove sono, anche quanto sono grandi. Poi però bisognerà fare arrivare l'informazione al guidatore. E qui allora, come funziona? Questa è la parte in qualche maniera più ormai standard rispetto alla tecnologia. Abbiamo un'applicazione geolocalizzata di dove si trova l'utente, può definire il parcheggio più vicino a lui secondo un range oppure il parcheggio più vicino al luogo di interesse. Però l'infrastruttura, oltre a darti l'informazione di dove si trova il parcheggio disponibile, dà un'altra informazione certa, dove non si trova il posto disponibile, cioè dove non ha senso andare perché quella strada magari non ha posti liberi, e quindi andare a sprecare carburante e tempo in quella zona È assolutamente inutile. A che punto siete dello sviluppo del vostro progetto imprenditoriale? State già cominciando a parlare con qualche amministrazione locale? Allora, abbiamo una decina almeno di amministrazioni locali che sono dichiarate molto interessate al nostro progetto, ma stiamo vedendo anche per utilizzare dei fondi della comunità europea per le singole città, specialmente città metropolitane, che in questo momento beneficiano di tante possibilità. Bene, torniamo in studio solo per salutarci, darci appuntamento a lunedì. Buona serata.